La salute degli italiani fotografata dal rapporto Serva Salute 2011, il stato di salute e qualità dell'assistenza nelle regioni italiane. A cura di Serva Salute in linea con noi il direttore, il professor Walter Ricciardi. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, la salute degli italiani si trova ora più che mai sotto il fuoco incrociato della crisi economica. Pressati dalle restrizioni economiche, gli italiani cominciano a risparmiare sulla prevenzione. Sì, è così perché per esempio quattro fattori di rischio per la loro salute, il primo è l'alimentazione e sull'alimentazione per esempio hanno cominciato a risparmiare sulla frutta e verdura, probabilmente costano troppo, non l'acquistano, è la prima volta che questi consumi calano dal 2008 e questo può tradursi in un aumento della mortalità per malattie cardiovascolari e per tumori. La stessa cosa riguarda il fumo che aumenta, riguarda l'abuso di alcol che aumenta, l'unica nota positiva sugli stili comportamentali è l'attività fisica, diminuisce del 3% la quantità di italiani che non fanno alcuna attività fisica, quindi un po' meglio solo sotto questo punto di vista. Gli italiani, se costretti a fare economia, tagliano però dove possono e cercano risposte rapide anche al moltiplicarsi dei piccoli disturbi, in aumento anche in funzione del carico psicologico legato all'incertezza, ma lo fanno sempre più a proprie spese. C'è un dato interessante, professore, che voglio commentare con lei ed è molto preoccupante, ed è l'aumentare consumo di farmaci antidepressivi. Sì, diciamo questo è un fenomeno che era già avviato negli ultimi 10 anni, che però sta avendo un'ulteriore accelerazione. Che questo sia un indicatore della crisi lo possiamo desumere anche dai dati che arrivano dalla Grecia e della Spagna, dove appunto i fenomeni sono aumentati in maniera a dire il vero più forte e più rapida che da noi. Però anche questo è un segnale d'allarme, cioè dobbiamo in qualche modo intervenire per limitare il disagio sociale che poi porta all'aumento del consumo di psicofarmaci. Per di più le scelte in ambito di politica sanitaria rischiano di peggiorare le cose. Le ultime manovre economiche realizzate in Italia in risposta alla tempesta finanziaria non aiutano. Infatti è così, perché di fatto già mezza Italia, cioè tutto il centro-sud, ad eccezione della Basilicata, è in cosiddetto piano di rientro, cioè i debiti accumulati per la sanità sono così forti che queste regioni hanno dovuto chiedere fondi allo Stato. Non è ancora il caso delle regioni del nord, però le regioni del nord in qualche modo corrono il rischio, perché già il governo precedente e quello attuale hanno confermato un taglio importante, 8 miliardi di euro in meno nel 2013 e nel 2014. Quindi c'è bisogno proprio di un cambio, culturale e organizzativo della gestione in sanità in Italia, a partire dalle regioni del centro-sud, ma anche per quelle del nord. Professor Ricciardi, ma le strategie, i ticket ad esempio, possono in qualche modo risolvere il problema? No, non l'hanno mai risolto in nessun paese del mondo, non è con queste strategie di carattere finanziario che si risolve il problema dei servizi sanitari, lo si risolve soltanto se si fa un'adeguata programmazione e si gestiscono bene i servizi sanitari, cioè se si danno risposte ai cittadini con le risorse che abbiamo, non c'è bisogno di più risorse, ma bisogna evitare gli sprechi e utilizzarli al meglio. Tuttavia la salute degli italiani resta tutto sommato, professor Ricciardi, buona, grazie un po' alla rendita che abbiamo a disposizione, merito per esempio della tradizione della dieta mediterranea. È proprio per questo che non dobbiamo perderla, perché noi adesso vediamo gli effetti maturati negli scorsi 20 anni, ma da 10 anni a questa parte stiamo vedendo che questa rendita si sta cominciando a corrodere, a erodere, e quindi noi dobbiamo agire adesso perché i prossimi 10 anni non siano caratterizzati da un declino. Grazie professor Ricciardi per essere stato con noi, le auguro una buona giornata.